Mi pare che dall'intervento umanitario e di interdizione affinché non ci fosse un massacro si sta rischiando di passare a un intervento di colonizzazione e questo è pericoloso. Noi vogliamo che sia mantenuto e rispettato rigorosamente il mandato e i limiti del mandato dell'ONU e per questo chiediamo che nelle prossime ore il Parlamento si riunisca e il Governo riferisca in Parlamento per farci sapere in base a quale direttiva e quale assunzione di responsabilità di governo sono stati mandati anche i nostri aerei, posto che un rappresentante del governo, anzi una coalizione che sostiene il governo, la Lega, dice che quella autorizzazione il governo stesso non l'aveva dato e quindi vogliamo capire di più e meglio e comunque sia, per quanto ci riguarda, noi sappiamo che fino all'altro ieri Obama, Zapatero, Berlusconi e mezzo mondo intero lo abbracciavano a Gheddafi, contro cui noi siamo senza se e senza ma oggi senza se e senza ma appunto gli fanno la guerra. Sì. Noi sappiamo che nel mondo ci sono tanti dittatori, sappiamo che bisogna fermarlo, ma sappiamo che questo bisogna farlo all'interno dei limiti e del mandato ONU e non andando a fare a chi è più forte o come ha detto la russa, non siamo secondi a nessuno, vogliamo far vedere che siamo pure bravi pure noi.